Mine Vaganti di Federico Taddia. Buona domenica e benvenuti a Mine Vaganti, in diretta dagli studi di Radio 24. Siamo qui con voi come ogni domenica per accompagnarvi magari nel vostro viaggio di ritorno dalle vacanze, oppure state andando verso luoghi di villeggiatura, o siete tranquillamente a casa, avete voglia di stare in nostra compagnia. Una puntata intensa, una puntata dove anche noi viaggeremo. La direzione ve la faccio dire da Alberto Sordi. Mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, così che mi incoraggio e mi consolo, col fatto di mannarmi c'è da solo. E va, che sì, ce devi andare, tanto si danni sconni dietro a un vetro. La mano c'hai davanti e un'altra dietro. Sì, andremo a quel paese. Meglio ancora se quel paese è un paese disabitato, un paese dimenticato, un paese fantasma o forse un paese fatato, perché c'è diatribi in rete su come definire questi paesi dove a volte c'è l'ultimo abitante, ma quasi sempre non c'è più nessuno. E questo viaggio lo faremo insieme a un collega, un giornalista che ha la passione per questa Italia che lui definisce Italia remota. È autore del libro Le vie nascoste, edito da Gianmarino Editore. Do il benvenuto ad Antonio Mocciola. Ciao Antonio. Ciao Federico, buongiorno a tutti quanti in ascolto. Ciao. Tu sei il giornalista pubblicista, caporedattore del Brigante, che è un sito internet. È un sito internet ed è anche un mensile cartaceo, molto noto da noi a Napoli, nel Regno delle Due Sicilie, e distribuito mensilmente, ma anche aggiornato quotidianamente online. Ecco, e tu hai elaborato, insomma, sei appassionato di questo turismo fantasma di fatto, cioè ti piace andare là dove gli altri non vanno, là dove gli altri vivevano e hanno scelto di non viverci più, o hanno scelto oppure sono stati costretti, perché chiaramente la vita ti pone davanti a tante complicazioni, specie da noi al sud, dove ci sono dei fenomeni idrogeologici alquanto potenti e prepotenti, per cui oltre all'immigrazione e tutto questo e ad altre vicende hanno fatto sì che questi paesi rimanessero totalmente disabitati. Le ghost town italiane, ma sono anche al centro nord. Argentiera, Curon Venosta, Scurati, San Pietro Infine, Itri, Stramentizzo, Campomaggiore Vecchio, Roscigno Vecchio, Buonanotte, sono i nomi di alcuni dei paesi che tu hai visitato e che racconti in questo libro, che ha una copertina emblematica. È un campanile che spunta da un lago e il panorama presenta le Alpi, credo, sono delle montagne molto belle. Che cos'è questo? Perché questo? Foto. Perché il campanile di Curon Venosta, che è un campanile del 1350 al confine con l'Austria, in altissima Val Venosta, in Alto Adige, naturalmente, è un po' la bandiera bianca dei paesi che non ci sono più, dei paesi cancellati. Curon Venosta è stata invasa dalle acque di un lago artificiale, che è il lago di Resia, per un approvvigionamento idrico di cui c'era bisogno in Alto Adige all'epoca, parliamo degli anni 50. La popolazione fu evacuata con un vero e proprio atto di forza, ma non sono riusciti a seppellire l'intero paese. È rimasto questo campanile, emblema di un'Italia che resiste, di un'Italia che ha voluto in qualche modo combattere contro quello che è stato percepito all'epoca come un sopruso. In realtà, se vogliamo, l'acqua serviva a tutti e gli abitanti erano poco più di 200. È stato un sacrificio limitato, però necessario. Ad ogni modo è stata una tragedia umana, perché tutti noi portati via dalle nostre case, specie in contesti microscopici come i paesi, siamo come scippati, siamo come defraudati di qualcosa. E come sempre apriamo le nostre coordinate, le nostre linee anche alle vostre suggestioni, ai vostri contributi. Insomma, qui il campo è aperto. Se abitate in un paese disabitato, ma la cosa non funziona per definizione, e se siete scappati, se invece avete cercato un paese con pochi abitanti, o se anche voi siete turisti alla ricerca di queste località, siamo qua e vogliamo condividere insieme la passione. Possiamo farlo, potete farlo via SMS al 349 238 6666 6 oppure attraverso il numero verde 800 24 00 24. In rete ci sono tantissimi documenti, tantissime immagini su, su questi borghi, su questi paesi, su questi quartieri, perché ci sono anche dei quartieri all'interno delle città. Ho provato a digitare ultimo abitante in Google e ho trovato diverse storie. Una a Rocino Vecchio, ma ci torneremo. Un'altra invece, che te la suggerisco per quando, per la prossima edizione del tuo libro, ho trovato un borgo che non c'era nel tuo elenco, si chiama Toiano e siamo in Toscana, al comune quello di Palaia, è un borgo molto suggestivo. Lì si parlava di questo Giovanni che a 40 anni aveva scelto di tornare a vivere in questo borgo, ma ho scoperto che era una sorta di bufala, perché Giovanni è andato lì, è uscito sui giornali, ma dopo un anno ha mollato il colpo, e me l'ha detto Antonella, che conosce benissimo la storia di questo borgo e ha aperto un agriturismo lì, a poche centinaia di metri. Ciao Antonella. Ciao, buonasera a tutti. Allora, agriturismo, podere della collina, lo diciamo, sì. che hai aperto ai piedi di questo paese disabitato che ha una storia strana. Intanto, perché la gente è andata via da lì? C'è stato l'abbandono delle campagne negli anni 60, 70 per andare a lavorare nei posti più redditizi, diciamo, nelle industrie. Qui c'è vicino la piaggia, c'è vicino il compressore del cuoio dove facciamo pelli, calzature, e quindi le campagne non rendevano più e tutti se ne sono andati, ecco. Quindi si è svuotato questo borgo, che è stato acquistato però in parte da una società. Sì, perché qualcuno, diciamo, facendo il turista passò di qua, vide la bellezza di questo borgo, perché veramente è molto bello. Ha una vista su tutta la campagna, si riesce a vedere addirittura tutte le giornate limpide. E vedendo questo borgo, vedeva cartelli vendisi, cominciò prima una, poi un'altra, fino a che l'ha acquistato quasi da perfetto, ecco. Ad oggi la sua proprietà è su parecchi immobili. Purtroppo però la nota negativa è che Non ci spende quanto dovrebbe, nel senso, nel mantenere questi immobili. Purtroppo sta accadendo questo borgo. Ecco, ma i turisti vanno a visitare questo borgo, possono andare, e cosa trovano? E trovano una parte, diciamo, che ancora regge. È originaria dell'epoca, con i muri ancora a mattoni, pietre, le finestre che magari, insomma, non sono messe bene, però comunque reggono. Una parte che è stranata, tra l'altro, non molto nel mese di luglio, purtroppo è ceduto un altro pezzo del paese, e invece un'ultima parte dove qualcuno ancora regge, nel senso c'è i proprietari che invece mantengono queste case. Infatti adesso mi trovo proprio su un bel terrazzo che vedo tutta la campagna. Ah, ma ti sei spostata? Sei lì sul... sei andata al borgo? Sì, sono su al borgo, sì. Fantastico, grazie. Quindi almeno per oggi ha un abitante, però leggendo appunto su internet, mi raccontavi anche tu di questa storia che ha fatto così, ha avuto un impatto mediatico, ma poi il sì. Tipo, tal Giovanni, ha scelto di abbandonare il borgo, sì. dopo pochi mesi, e invece adesso una giovane coppia si è trasferita lì? Sì, abita costantemente qui. Purtroppo sono venuta su, ma oggi non ci sono andati via. Ma li hai conosciuti? Come mai che hanno fatto questa scelta? Hanno fatto questa scelta perché, sai, essendo giovani vogliono forse maggiore intimità, penso io. Poi magari quando avranno figli le scelte cambieranno, non si sa. Ma lì arriva l'acqua, arriva la luce? La luce, il telefono, c'è tutto. L'acqua è il problema di Toiano, perché la rete idrica non arriva qui, cioè l'acquedotto pubblico. E quindi qui si sono organizzati con delle cisterne, un po' come le cisterne dove si raccoglie l'acqua piovana, viene filtrata e si riutilizza quella durante l'estate. In inverno si fa l'accumulo e in estate si consuma. Comunque okay, Antonella, ne parli con passione di questo borgo. Tu non sei nativa di lì, mi dicevi prima, sei nata a pochi chilometri, ma lo senti un po' tuo, ti senti un po' la custode di queste mura. Sì, è difficile abitare qui, sì, non è facile. Però è una sensazione, insomma, che non credo si possa provare abitando dove c'è un po' il mucchio di persone, io chiamo, no? Una sopra l'altra. Qui veramente lo spazio è tutto a tua disposizione, la natura si fa vedere in tutto, Insomma, quindi lasciate stare la coppia in cerca di intimità, ma andate a visitare Togliano perché ne vale la pena. Grazie, ne vale la pena, veramente. Grazie davvero, Antonella, per la tua testimonianza. Grazie davvero. Giù in paese si gioca ancora a carte, niente a che vedere con la borsa. C'è la festa in piazza e la sposa bambina, ultimi lampi dell'Italia contadina. C'è chi vorrebbe non può parlare, e chi senza senso va a fare il militare. Tutti soldati e marinai, che capitani non diventeranno mai. È un Sergio Endrigo che ci dà il clima della puntata di oggi, anche se non vuole essere una puntata malinconica, perché questi paesi disabitati sono belli, sono cercati, c'è veramente un turismo particolare, come ci sta raccontando Antonio Moccio, l'autore del libro Le vie nascoste, e di un turismo anche un po' illegale, no? Perché a volte sì, puoi ammetterlo, puoi confessarlo, sei andato dove non potevi andare. Certo, perché in molti paesi c'è un vero e proprio divieto di ingresso, sono case pericolanti, di conseguenza il comune a cui il borgo abbandonato appartiene tende a scoraggiare questo tipo di incursioni, quindi io sono andato dove non si può andare effettivamente, tieni conto che basta un colpo di vento e cade giù l'intonaco, può cadere un tetto, una mattonella, sono paesi in disfacimento chiaramente. È un turismo illegale se vogliamo, però è un turismo forse proprio per questo ancora più attraente, ancora più stimolante. Poi insomma siamo tutti bravi ad andare agli Uffizi a fare 20 ore di coda, là non trovi veramente nessuno, sei solo con te stesso a tuo rischio e pericolo chiaramente. Comunque prendi nota per il seguito del tuo libro, Togliano. Poi stanno arrivando al 349-238-6666 altre segnalazioni. Bussana Vecchia, 10 chilometri circa in Liguria, che sta diventando questo borgo di artisti, anche perché poi a volte diventa un turismo di elite quello che era invece un turismo povero. Oppure è Pesco Penataro, Molise, 1300 metri, li conosci tutti? Sì. Però c'è troppa gente a Pesco Penataro ancora. Ben 300 abitanti. Esatto. È una metropoli. È una metropoli per i tuoi gusti. Ma parliamo del concetto di ultimo abitante o di abitanti, perché nel tuo libro, per esempio, non hai intervistato le persone che ancora vivono o che vivevano fino a pochi mesi o pochi anni fa in queste località. Li ho ascoltati e devo dirti la verità, allora non rapporto abbastanza contrastato con il loro antico borgo, perché hanno un odio amore che è quasi più odio che amore. Sono stati in effetti costretti ad emigrare, ma è stata un'emigrazione vicino casa praticamente, quindi non è stata un'emigrazione per lavoro, è stata un'emigrazione per insicurezza del suolo. Di conseguenza loro patiscono alla fine quello che pativano prima nel loro vecchio borgo. Non sono andati, per dire, nella metropoli a trovare un lavoro sicuro, sono andati vicino e hanno gli stessi problemi di prima, però hanno case più comode. Di conseguenza io li ho intervistati, però loro non rimpiangono affatto il vecchio borgo, che a noi sembra affascinante, ma che aveva chiaramente all'epoca, adesso a maggior ragione, tanti di quei problemi veramente insormontabili. Zidorina, che è stata l'ultima abitante di Roscigno, che è stata anche un po' celebre perché è stata intervistata prima di morire nel 2000, era affezionata al suo borgo, ma fino a un certo punto, alla fine, voglio dire, c'è sempre questo senso di solitudine che vissuta ora per ora diventa anche un po' inquietante, poi soprattutto ad una certa età. C'è l'orgoglio, ma c'è anche diciamo un po' di sano terrore ad abitare da soli in questi posti. Infatti, digitando ultimo abitante sempre su Google si arriva a Roscigno Vecchio, anche perché un po' sono diversi gli ultimi abitanti, quindi c'è un po' di diatriba in corso su questo ruolo. Una località pazzesca anche questa, Roscigno. È chiamata la Pompei del Novecento, è stata ricostruita ad inizio secolo un po' più a nord, ed è rimasto intatto il borgo con una fontana ancora funzionante al centro del vecchio borgo. Ogni tanto si fanno delle rappresentazioni anche etniche, no? di balli, canti e danze. E anche perché tra i borghi abbandonati è quello tenuto anche meglio, c'è appunto una Proloco, dove adesso c'è anche una persona che si occupa, insomma, di rappresentarla come immagine, la località. però l'intero Cilento è pieno di borghi abbandonati, Rocigno ne è l'emblema. E poi storie strane di paesi nati per caso o per utopie o per decisioni difficili anche da comprendere ora, tipo Campomaggiore Vecchio, che ti dico in modo sinteticissimo, è un paese lucano, e sono lucano di origine, quindi lo amo particolarmente. Fu costruito a fine 800 proprio per far sì che ospitasse esattamente 1600 abitanti, quindi è stato costruito affinché ogni persona avesse il suo mestiere, fosse una cittadina autonoma, quindi il calzolaio, quindi il mugnaio, cioè tutti ogni categoria veniva rappresentata, cioè, tra il presepe e il centro commerciale, una cosa così. Ecco, questa è meravigliosa perché è la sintesi perfetta. Esattamente, ora è un presepe, all'epoca poteva sembrare in effetti anche un outlet, perché poi erano mestieri chiaramente che adesso non esistono più. All'ingresso del paese c'è una tabella in cui ci sono tutti i mestieri, il calzolaio si chiama così, ed è meraviglioso, ed è adesso chiaramente lo stato di rudere, ma è molto affascinante. C'è anche una basilica in questo paese, fuori scala, chiaramente molto pretenziosa, ed è molto affascinante. Campomaggiore è risorta pochi metri più a nord e non ha naturalmente lo stesso fascino del vecchio borgo. Stiamo viaggiando questa Italia disabitata e ti accompagno però, Antonio, adesso a fare un altro viaggio, e questo viaggio lo facciamo sul Po. E con amore ci nasconde in una parola. È il Po, è per colpa di quel fiume se io sono ancora qui. Perché un giorno c'era un ponte che univa gli argini. Beh, è una sorta di ponte anche quello che vuole realizzare lui, un ponte che parte dal Museo del Cinema di Torino e arriva alla Mostra del Cinema di Venezia. Si chiama Guido Morandini, è un regista, un appassionato di cinema, ma un appassionato anche di viaggi, un attento osservatore, e ha deciso di fare questo viaggio strano, partire da Torino, arrivare a Venezia e utilizzare il Po come canale, come percorso, come strada e autostrada, ma non solo, e il Po affrontarlo un po' in bicicletta, sulla quale trasportare anche una canoa, e un po' in canoa sulla quale far salire anche la bicicletta. Do il benvenuto a Guido Morandini. Ciao Guido. Ciao. Ciao. Su che mezzo sei in questo momento? Adesso sono rientrato. Sono stato in canoa fino a 20 minuti fa. Ero a Pavia, sul Ticino, perché non solo il Po, ma anche le acque che arrivano al Po, il sistema Po. Già che ci sei, vero? No, dicevo, già che sei lì e fai anche le deviazioni del caso. Certo, ieri ho seguito il canale Cavour, l'acqua che viene presa e l'acqua che viene reintrodotta. È un viaggio nell'acqua, ma anche delle differenze. Per esempio, parlavi dei nomi, toponomastica, sì, che dice la storia di un posto. Io ho attraversato un luogo che si chiama Alluvioni Cambiò. Era un piccolo paese che stava sulla sponda sinistra del Po. Un'alluvione nel 700 lo fece ritrovare sulla sponda destra. Ricostruirono il paese cambiandogli il nome, e appunto Alluvioni Cambiò. Questo per darti un'idea anche come la toponomastica possa essere una traccia per trovare delle strade e anche delle storie. Guido, ma sono più i tratti che percorrerai in bicicletta o quelli che percorrerai o hai percorso in canoa? Per adesso più in bicicletta. Ieri ho fatto 40 chilometri sul Po, però il giorno prima ne ho fatti 90 in bicicletta. Scusa, perché quando faccio le mie interviste mi piace anche raccontare un po' il backstage. E quando ti ho chiamato due giorni fa per concordarla, eri disperato perché avevi perso la telecamera che avevi attaccato alla bicicletta e non la trovavi più. Com'è andato il recupero? Sono tornato indietro proprio sul canale Cavour, dove l'avevo persa, perché avevo intervistato una persona che correva, l'ho ritrovata. E adesso posso fare queste riprese, una piccola telecamera, e può andare sott'acqua oppure stare sopra e fare delle riprese a 170 gradi, ed è utile per raccontare un po' anche una soggettiva di chi viaggia. Per quanto riguarda il discorso del oggi, per esempio, tra ieri e oggi c'è una differenza notevole. Ieri ho attraversato un pezzo di Po magnifico tra Frassineto Po fino al ponte di Valenza. Non ho incontrato nessuno. Sembrava di stare all'interno di un qualcosa che non non era pianura padana, non c'era il reticolo delle strade, non c'era niente, ero solo io, piccolissimo, in mezzo al grande fiume. Oggi sul Ticino, dal ponte di barche fino a Pavia, era pieno di gente, anche di noiosissimi motoscafi. Tanto voglio dare il blog che tieni aggiornato dove racconti il tuo viaggio, che è viaggiosulpo.wordpress.com, e arriverai fino a Venezia, lì insomma è un po' il tuo mestiere, ma sei accreditato, porterai il tuo film in mostra? No, non sono accreditato come direttore artistico di un cinema, di un particolare cinema che c'è a Roma, che è del comune di Roma, che è appunto del comune, sono accreditato come direttore artistico. Io farò una cosa semplicissima, alcuni brani aprirò il computer di fronte alla mostra e li farò vedere agli amici. Non sono assolutamente accreditato perché non so neanche se ce la faccio arrivare. Anche quello è vero, non credo che ti aspetteranno, cioè loro vanno avanti con il loro programma, quindi sei tu che devi un po' organizzarti. E Guido, un'ultima cosa, perché nel tuo sito, nel tuo blog, ho trovato questa fantastica intervista a un personaggio assurdo che credo ti abbia anche un po' ispirato questo viaggio. Lui che riuscì a portare una sorta di vascello da Fiumicino al lago di Garda, giusto? Sì. E questo si chiama Walter Bertolazzi, che guardando a Peschiera del Garda, il Garda appunto, si accorse che non si vedeva la sponda dall'altra parte e pensò che fosse un posto dove si potevano girare i film in una situazione più tranquilla. Era come essere al mare, di fatto, dal punto di vista cinematografico. Era come il mare, solo più tranquillo. Più tranquillo fino a un certo punto, perché poi la storia ebbe un risvolto tragico. Però parte, compra una nave, in realtà chiede a De Laurentiis e a Ponti, nel 59, la nave che fece l'Ulisse, che stava ancorata a Fiumicino. Gli disse, mi date la nave, che cosa ne vuoi fare? Gli disse, la porto al lago di Garda. Lo guardarono e tu sei matto, se ce la fai te la regaliamo. Ce l'ha fatta. Fantastico. E tutti i film di Cappa e Spada girati dal 59 al 66 sono stati girati sul lago di Garda a Peschiera dalla produzione Walter Bertolazzi film. Poi un fortunale, ecco, non era tanto tranquillo, distrusse tutto nel 66 e finì da Bertolazzi film. Speriamo che insomma che il tuo viaggio sia un po' più fortunato invece. Erano tempi eroici in cui le cose si misuravano con la propria energia, con la propria forza e con una specie di sogno. Oggi un po' più tutto è vero, calcolato. Però forza, energia e sogno sono tre parole che ti puoi giocare anche tu in questo bel viaggio che stai facendo sul Po. viaggiosulpo.wordpress.com. buona pagaiata e buona pedalata. Ciao Guido, grazie. Ciao. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano, donne truccate, il visagista delle dive è truccatissimo, ma paveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto, Italia sì. Italia sì, Italia no, Italia buona. Beh, non è un'Italia molto remota quella che cantavano Elio e le Storie Tese qualche anno fa, è un'Italia remota ma ben presente invece quella che ha scritto e che ha raccontato Antonio Mocciola nel suo libro Le vie nascoste. E Antonio, stanno arrivando tantissime segnalazioni, per esempio mio nonno è stato l'ultimo abitante di Caldinoro in provincia di Parma, ogni volta che ne parla si commuove, dice Luca. Oppure Borgo Pradis e Tramonti di Sopra, provincia di Pordenone, sì, un abitante e tutte le case restaurate. È la nostra bella Italia che ci state raccontando, certo. Anche voi al 349-238-6666. Con i nomi si gioca, vero? Si gioca con i nomi. Io, mentre parlava Morandini, mi veniva in mente anche che molti fraintendono il nome Maratea, per esempio. Maratea vecchia, naturalmente, è quella sotto al famoso Cristo che è stato costruito negli anni 60. Poi è diventata località turistica di mare, ma il nome non deriva da mare. Maratea non viene né da mare né da dea del mare. Viene da Maratus, che vuol dire finocchio, l'ortaggio, naturalmente. Un posto che era di montagna, Maratea. È sempre stato un posto estremamente votato alla montagna, con una cucina di terra. terra, eppure è diventato di mare per i casi del destino. Oppure Itri, per esempio. Itri è una città vive vegeta in provincia di Latina, dove si producono le famose olive di Gaeta, in realtà sono ad Itri, e viene da Idra, che vuol dire serpente, perché l'antica Itri, che si chiamava Amicle ed era qualche chilometro più su, fu spopolata da un'invasione notturna non si sa bene, saraceni, quale tipo di invasori, ma gli abitanti avevano fatto un voto, appartenevano ad una setta pitagorica, il voto del silenzio, per cui anche le guardie che sorvegliavano il paese, per non tradire il voto del silenzio, non avvisarono la popolazione che stava per arrivare questa invasione. Di conseguenza il paese è stato saccheggiato, è stata anche una vera e propria tragedia, insomma sono stati deportati gli abitanti, i pochi che sono rimasti sono poi stati costretti ad emigrare qualche centinaio d'anni dopo per un'invasione di serpenti, da cui dopo questa invasione di serpenti che spopolò quel che restava di Amicle, fu fondata Itri, e sulla porta d'ingresso di Itri c'è un serpentello scolpito nella pietra della porta d'ingresso, che appunto rappresenta un'idra e quindi un serpente. Idra è il nome del serpente, ed è bellissima questa ascendenza, perché recentemente sono stati ritrovati i resti dell'antica Amicle, spopolata dal voto del silenzio e dai serpenti. Racconti, aneddoti, storie, insomma. Antonio, complimenti davvero, perché questa forma di turismo ci piace. E adesso ne presento un'altra, ma andiamo lontanissima, andiamo in Kenya. E con questa danza Masai entriamo nel cuore del Kenya, entriamo proprio in una riserva Masai, lo facciamo con un'italiana, si chiama Laura Alessandrini, da 4 anni vive lì e si è inventata questa cosa molto particolare. Lei organizza dei corsi per diventare giovani guerrieri Masai. Ciao Laura, benvenuta a Mine Vaganti. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, si può diventare guerrieri? Cioè, uno nella vita non ha fatto nient'altro che lavorare in ufficio e in una settimana può diventare un guerriero Masai? Diciamo che in una settimana può sperimentare com'è la vita del guerriero Masai, poi insomma per diventare un guerriero ci vuole qualche anno, penso. Comunque sì, noi abbiamo organizzato con questo gruppo di Masai di cui sono socia, abbiamo organizzato questo training per imparare gli skill di base dei guerrieri, e che in sostanza consiste nel dare un'opportunità ai nostri ospiti di provare in prima persona le varie attività che un guerriero deve fare, per cui dal tracciare gli animali quando si perdono le vacche o le capre, o bisogna tracciare il leone che ha mangiato le vacche, lottare con le varie armi tradizionali, farsi le medicine con le piante che si trovano qui nella zona, fare il fuoco, trovare l'acqua e così via. Laura, intanto tu cosa fai in Kenya? Nel senso che già la tua storia è particolare, perché tu hai abbandonato l'Italia e hai abbracciato l'Africa di fatto. Sì, abbastanza. Io prima lavoravo in Italia, a Milano e a Roma come consulente in una società una società di consulenza strategica. Poi invece nel 2006 sono venuta in Kenya, dove ho accettato un lavoro per un'organizzazione non governativa che si occupava di ambiente. Dopo un paio d'anni sono tornata nel settore privato, prima lavorando con un gruppo di aziende di proprietà di una famiglia danese, e poi mi sono messa in proprio l'anno scorso verso novembre insieme a questo socio Masai, con cui abbiamo aperto la società che adesso organizza appunto i training per guerrieri Masai. Ecco, ma quando si parla di Masai cosa si intende? È una tribù, una riserva, è una comunità che vive in una zona particolare del Kenya? Dunque, i Masai sono una delle tribù del Kenya. Il Kenya ha 42 tribù, le tribù sono essenzialmente dei gruppi etnici che hanno una lingua che li contraddistingue e tipicamente uno stile di vita che li contraddistingue, che può essere, come nel caso dei Masai, uno stile di vita nomadico e pastoralista, per cui la loro vita tradizionale è basata sulle vacche, sulle capre, che portano in giro determinate zone al pascolo. Negli ultimi anni la vita è diventata un po' più stanziale, alcuni hanno cominciato ad avere degli appezzamenti di terra che coltivano, però diciamo che la vita loro ancora è essenzialmente incentrata sulle vacche, sugli animali domestici, che portano a volte anche per mesi i guerrieri, li portano fuori al pascolo in zone anche abbastanza remote. Ecco, quindi vivere con i Masai vuol dire vivere in accampamenti, in case, in tenda, cosa significa? Allora, le case dei Masai tradizionali sono delle capanne fatte di fango, di sterco e di bastoni, che, con delle coperture di fieno sopra, che vengono utilizzate per un periodo di qualche mese, poi fino a quando i pascoli della zona si sono esauriti e poi tutta la famiglia si sposta. Di solito queste capanne all'interno sono sorprendentemente fresche, intanto, molto buie, di solito all'interno ci sono delle stanze divise, delle stanze piccole però comunque suddivise, dove c'è una zona, diciamo, una zona dove si cucina, dove c'è sempre un fuoco acceso, poi ci sono le camere dove ci sono dei letti fatti sempre con, più o meno con lo stesso sistema, con delle pelli di mucca su cui poi la gente dorme. Di solito c'è una stanza per la madre e i bambini più piccoli, una stanza per le figlie più grandi e una stanza per i guerrieri. E tu lì vivi da italiana o da Masai? No, vivo da italiana. No, noi abbiamo un campo tendato, i nostri ospiti non stanno nelle capanne, ma stanno in questo campo tendato, abbastanza di lusso direi, molto elegante, dove ci sono delle tende di 4x3 metri, con dei letti a baldacchino, con un bagno e una doccia all'esterno per ciascuna tenda. Il campo è molto piccolo perché abbiamo massimo 8 ospiti, per cui 4 tende, e anch'io vivo in una delle tende del campo. Quindi sì, una vita che è un po' una via di mezzo comunque, diciamo, tra la vita di un italiano che abita magari a Cinipesello Balsamo e quella che può essere quella di un Masai. Ma c'è corrente elettrica anche? No. Niente corrente elettrica, niente acqua corrente. Abbiamo un sistema di lampade solari per illuminare e per ricaricare i telefoni, ma per il resto facciamo senza corrente. E insomma, e hanno veramente imparato qualche tecnica, nel senso che si va al di là dell'aspetto folcloristico, immagino? Sì, guarda, si va decisamente al di là dell'aspetto folcloristico, anzi quello proprio per noi non c'è, per una serie di cose. Allora, intanto, come dicevi tu, perché imparano delle tecniche, imparano tutto, imparano a fare le attività tradizionali, quando si tratta di usare l'arco e le frecce o la lancia o lo scudo o di tracciare gli animali e così via, i trainer li fanno vedere come si fa e dopodiché li fanno provare fino a quando non riescono a farlo per conto loro. Tutta l'esperienza è stata disegnata con i trainer, che sono questi ragazzi Masai qui della zona, e quello che loro ci hanno messo è tutto quello che per loro è importante della loro cultura, che vorrebbero condividere e fare in modo che gli ospiti apprezzino. Però c'è una cosa ancora, secondo me, forse più che ci caratterizza di più ancora del semplice fatto che sia un'esperienza autentica, cioè noi veramente diamo modo ai nostri ospiti di acquisire una comprensione della cultura Masai che va al di là del semplice aver sperimentato la loro vita e così via, perché i nostri trainer sono davvero ambasciatori eccezionali della loro cultura. Sono Masai fino al midollo, però al tempo stesso sono capaci di relazionarsi con noi occidentali e con la nostra cultura, quindi in grado di introdurci nella loro in un modo che per noi è estremamente comprensibile. Laura, grazie davvero. Diamo il sito internet per tutte le informazioni. Certamente, allora è www.bush-adventures.com. Una cosa che devo specificare, sì, è che per poter godere di questi training, per poterli veramente godere fino in fondo, bisogna essere in grado di parlare inglese, perché i trainer purtroppo ancora l'italiano non lo sanno. Ok, insomma, quindi fatevi prima un corso di inglese e poi buttatevi in questa cultura Masai. Ciao e grazie, buona domenica. Grazie a voi, buona giornata. Ma Mine vaganti. Scrive poesem in tergo suo. Facte non verba. Scrivam in sanguine. Cur non. Facci a musica. Iucunditas. Adrem. Leva via un con. Leva via un con. Forse qualcuno lo sta riconoscendo anche solo dall'audio. Sono alcune scene prese da The Passion di Mel Gibson. Perché questo film? Perché ci porta la location in un altro paese dimenticato, perché molte di queste scene sono state girate a Matera, però una in particolare, lo sfondo a Craco. Craco, che apre il tuo libro su internet, c'è di tutto su Craco, perché è un paese perché misterioso. È emblematico, se vogliamo, anche di questi paesi. È completamente disabitato ed è forse uno dei più grandi tra quelli disabitati. Craco è stato lo sfondo dell'impiccagione di Giuda, parlando di The Passion di Mel Gibson, ma anche di Cristo si è fermato ad Eboli, per esempio, di Rosi, un libro chiaramente di Carlo Levi. Craco è bellissima, a differenza di altri paesi, ci tengo a dire, non sono tutti capolavori questi paesi, sono anche paesi rurali, un po' poveri, non troverete un masaccio dentro qualche chiesa, però Craco un po' si distingue perché c'è un palazzetto baronale, perché è stata addirittura sede universitaria e perché è stata abbandonata negli anni 60, quindi troverete anche le lavatrici, i primi accenni di modernità, ecco, che timidamente si affacciavano nelle case di Craco. Voi li troverete insieme alle stalle, perché sono diventate adesso stalle anche spontanee di giumente, di greggi di passaggio, e è lì che si trova il divieto di accesso, è lì che ti ammoniscono non entrate, e dunque uno entra, perché Craco è veramente pericolante, gli alberi sfondano i tetti delle case, insomma c'è tutta un'atmosfera magica, ci si raduna noi amanti delle cose, diciamo, di nicchia, e Craco è un po' la nostra madre, e in Lucania. Allora, c'è uno spazio su Facebook, tra l'altro c'è una pagina, c'è proprio un gruppo di Facebook, vi facciamo vedere Craco con tantissime adesioni, tantissime storie. Cioè, per esempio, leggevo un messaggio di una ragazza che credo che adesso faccia la parrucchiera in Craco Nuova, perché esiste Craco Nuova. Peschiera, sì. Craco Peschiera, che sì. Ricorda quando dormiva a casa dalla nonna. C'è una diatriba fortissima, perché c'è l'ultimo abitante di Craco che sta litigando col penultimo abitante, sono due allevatori, si stanno... appunto bisticciando perché per la pastorizia, e non solo, altra polemica perché c'è un parcheggiatore abusivo, ho letto, che chiede 4 euro per il parcheggio, questo non lo sapevi. A me non è capitato, però devo dire la verità. Insomma, quindi c'era così un po' di però storie collaterali, diciamo. Storie collaterali di un'Italia in questo caso però un po' abbandonata, nel senso che l'amministrazione forse non sta facendo nulla nemmeno per preservare questo posto. Nel caso di Craco il sindaco si dà molto da fare, in realtà è talmente ingente l'esborso per restaurare o soltanto per rendere praticabili certi posti, parliamo comunque di Lucania, non sono terre facili, non sono terre ricche, ci sono altre urgenze, onestamente parlando. Quello che si può fare, naturalmente questo magari il libro vuole un po' in qualche modo proporlo, è ammonire a non abbandonarne altri, perché se alcuni di questi sono irrecuperabili, altri sono ancora in qualche modo utilizzabili, come albergo diffuso per esempio, come ha fatto Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo, o alcuni in Trentino che si sono ridati un'immagine medievale che hanno sempre avuto ma che hanno un po' rispolverato, anche con giusta furbizia. Ecco, questo si può fare, questo è un po' il senso del lavoro, dare, se vogliamo, un tanto visibilità a questi posti e poi aiutarli a non uscire dalla storia totalmente, come invece adesso accade. Torno a Craco e lo faccio con Pietro Laureano. Ciao Pietro, benvenuto a Mine Vaganti. Buon pomeriggio, come va? Noi molto bene. Craco, località che credo tu conosca molto bene. Certamente, è un posto importantissimo. Allora, vi presento Pietro Laureano, anche se non credo di essere in grado di farlo completamente. Tu sei un architetto e urbanista, sei originario di Matera, lavori per l'UNESCO e non solo, e ti abbiamo invitato in questa puntata dove si sta un po' parlando di paesi disabitati, paesi che possono andare perduti, perché hai questa iniziativa in atto che è una sorta di creazione di una banca mondiale del sapere perduto. Cosa, sì. Che cos'è? sì, praticamente tutte queste conoscenze rappresentate anche da questi paesi abbandonati, non dimentichiamo l'Italia, non c'è solo Craco, i Sassi di Matera avrebbero fatto la stessa fine se non avessimo insistito per l'iscrizione all'UNESCO, per andarci ad abitare, per dimostrare che sono ancora una proposta valida di modo di vivere, ma anche l'Aquila, stiamo rischiando di far diventare l'Aquila un paese abbandonato, costruendo il nuovo, cioè proponendo sempre cose nuove invece di ragionare sul fatto che nella storia avevamo trovato delle soluzioni ai problemi, a problemi che oggi ci affliggono in modo profondo, cioè problemi tipo il cambiamento climatico, tipo la mancanza di risorse, tipo la distruzione degli ambienti e degli ecosistemi. Ecco, tutte queste pratiche, queste conoscenze che hanno permesso di costruire il paesaggio che noi oggi vediamo, i monumenti che noi oggi apprezziamo, i centri storici che viviamo, tutte queste pratiche sono state nel tempo tralasciate, sono state dimenticate in ragione di una tecnologia che si pensi dovesse essere sempre diversa, sempre diversa dalle radici che l'hanno prodotta e che invece è guidata da una logica semplicemente di profitto, cioè di vendita di nuovi prodotti, di nuove metodi che sono distruttivi di energia, che sono distruttivi di risorse. Ecco, c'è invece un sapere profondo, un sapere antico dell'umanità che le avversità le ha già passate e spesso le ha già risolte, che ci permetterebbe di affrontare la crisi odierna, la grande crisi globale che stiamo attraversando. Ma ci puoi fare qualche esempio pratico per capire quelli che sono i saperi? Gli esempi sono su tutti i campi, parliamo di milioni e di milioni di pratiche e conoscenze, però su un piano diretto, su quello che sta avvenendo adesso in questi giorni, questo mese di agosto che abbiamo avuto caldo e con ondate invece di piogge irruenti, sì. No? E che mette a dura prova tutto il nostro paesaggio, tutto l'assetto del territorio, vedremo sempre di più l'alternarsi di tornadi, di catastrofi, di inondazioni e di momenti di siccità, di mancanza di acqua. Ecco, gli antichi avevano risolto questo problema terrazzando il paesaggio, facendo tutta una serie di muretti che permettevano ai pendii di proteggersi dall'erosione, fare in modo che l'acqua quando c'è venisse captata in cisterne, canalizzata, indirizzata verso grotte, verso alvei. Ecco, tutto questo manteneva la bellezza e la consistenza del paesaggio italiano. Noi abbiamo tralasciato di mantenere questi terrazzamenti, questi muri a secco, questi muri di pietra, queste costruzioni rurali e vediamo quello che sta succedendo. C'erano pratiche in tutte le nostre campagne, c'erano sistemi di raccolta d'acqua sul tetto, grandi cisterne che captavano l'acqua dei tetti, a Matera le terrazze dei tetti sono fatte apposta per non perdere una sola goccia di acqua piovana, preziosissima, ma così era in tutte le nostre campagne e anche questo è completamente abbandonato. E questo sito che stai realizzando, c'è già un prototipo, no? Allora l'idea è queste pratiche che io ho detto, ce ne sono di stranissime, ce ne sono in paesi lontani, addirittura ci sono sistemi in simbiosi con le termiti per rifare i suoli, per permettere ai suoli di diventare coltivabili, per permettere di riciclare i rifiuti, di rendere l'acqua potabile. Ecco, tutte queste tecniche sparse in tutto il mondo si perdono perché man mano che muoiono le persone che le praticavano, che le conoscevano, se ne perde completamente nozione addirittura, e si tratta di classificarle, di inventariarle, di averle in memoria, di registrarle. Allora noi insieme all'UNESCO abbiamo creato un sistema iconografico, lo chiamiamo, cioè tipo basato sull'idea su come funziona internet in modo molto amichevole, cioè per ogni tecnica abbiamo fatto un disegnino, un'icona che viene inserita nella mappa del mondo nel luogo dove questa tecnica viene praticata, così che uno andando sulle mappe del mondo attraverso il nostro software, e c'è un sito già internet, un prototipo che già funziona, può vedere dove nel mondo ci sono delle tecniche e delle pratiche. Naturalmente può avere tutte le informazioni necessarie su queste tecniche, questa è una banca delle conoscenze, una banca gratuita, tutti possono accedere, scaricare delle informazioni, avere delle informazioni, utilizzarle e naturalmente anche fornirci delle informazioni, perché l'idea è stimolare la gente vedendo questi esempi che noi inseriamo a dirci ma perché anche da noi c'è una cosa simile, no, forse è un po' diversa. Fantastico. Allora mando anch'io queste informazioni, c'è una rete di esperti mondiali che valuta queste informazioni, quando vengono validate e ritenute utili alla costruzione di questo sapere, di questa banca di sapere, e queste informazioni vengono rimesse su internet, naturalmente dando credito a chi ha le inviate e soprattutto alle comunità che poi queste tecniche detengono. Insomma. Pietro, sicuramente parleremo ancora di questo tuo progetto, diamo il sito internet intanto per chi volesse dare un assaggio di questo lavoro immane che state compiendo. Il sito internet internet, che è ancora un prototipo, certo, però già si può vedere, ci possono avere già circa 3.000 sì, tecniche catalogate, divise in grandi famiglie, e migliaia e migliaia di fotografie di modi di fare. E www, quindi il www, tkwb.org. Perfetto. Tkwb è traditional nelle tecniche che chiamiamo TKWB, Traditional Knowledge World Bank. Ok, non creiamo confusione, tkwb.org. Grazie davvero, complimenti e buon lavoro. Ciao, ciao Pietro. Grazie, ciao. Ed è il momento dei saluti anche con il nostro ospite di oggi. Ricordiamo anche nel tuo caso un sito, che è www.gianmarinoeditore.it, che è il sito della casa editrice del libro Le vie nascoste, tracce d'Italia remota. Domani farà una presentazione live. Domani siamo ospiti di Libri sotto le stelle a Maiori, nella piazza di fronte all'Hotel Regina sul Porto. Le meridiane di Alfonso Giarletta, con me c'è l'editore Gino Giammarino, Maurizio Vitiello e Roberto Azzurro, attore meraviglioso che leggerà parti di questo libro. Proprio in sintesi, questa località, buonanotte. Buonanotte, ex Malanotte, come Benevento, ex Maleventum. Un re di passaggio trova un rifugio nel castelletto, in un palazzetto nobile di Malanotte, e si salvò dalla morte, perché all'epoca le tempeste erano tempeste, e il giorno dopo cambiò il nome in Buonanotte. Questa è la leggenda. Grazie, grazie ad Antonio. Grazie Mocciola. A te, Federico. Mine vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, ancora mine vaganti, e come sapete in questa seconda parte ci tuffiamo nella cronaca locale, apriamo proprio con la rassegna stampa. Durante la settimana sono andato alla ricerca di alcune notizie e così vi presenterò i titoli più belli e divertenti, e come sempre ho con me un opinionista. Questa settimana ho invitato Steve Jobs. Thank you very much, Mr. Jobs. Thank you for Mr. Jobs. Thank you. Thank you very much. Thank you to everybody. Mr. Jobs. Thank you for everybody. Thank you. Thank you very much. Mr. Jobs, we are so happy you be here. Yes, yes. Stay quiet, please. Sì. Mi scusi, yes. Mr. Jobs, ecco. Yes. Io posso dirlo senza tema, yes, di essere smentito? Yes, yes. Sì, sorry, yes. Che questo this object is completely revolutionary. Questo oggetto è straordinario. Don't forget. This is not. Non dimenticate che questo non è propriamente un telefono. No. It's not a computer. This. Non è propriamente un computer. This is not a ebook. No. Non è propriamente it's un libro. E-book. Yes. E che cos'è sta a fare qua? Un pack. Ecco. Pack. Perfetto. Thank you very much. Don't touch, it's better that you don't touch. Però non dimentichiamoci, questa è la mania delle app. Le app, come possiamo chiamare le app? Application. Sì. No, ma quei quadratini che voi schiacciate. Yes. Ecco, quei quadratini che schiacciate. Don't touch with your hand. And people say, I want to explain. Application. Okay. Ecco, come possiamo tradurre in italiano queste application? Bullshit. Bullshit. Non lo so. A copertino, stronzate, così proprio amichevolmente. È il migliore Steve Jobs del mondo e ce l'abbiamo noi. Diamo il benvenuto a Raul Cremona. Ciao Raul. Ciao, come va? Tutto bene? Noi sì. Allora, possiamo dire, no, che ti abbiamo svegliato, eri appena atterrato dalle tue... No, sono arrivato da poco, è un viaggio lunghissimo, sto proprio... come dico di solito, bombato. Grazie comunque per essere qua con noi. Sai che dovevamo cercare un minuto di Steve Jobs per presentarti, e ci siamo attaccati al computer e abbiamo veramente riso tutti. Devo dire che questo Steve Jobs qua è stata una, diciamo, un'intuizione carinissima di Maurizio. È stato un rapporto bellissimo anche in trasmissione, ci siamo divertiti molto. Mm-hmm. Ma tu lo usi adesso? Lo usi? Ah, devo dire di no, perché sai, lì siamo entrati proprio in una specie di, come dire, di ricostruzione quasi millimetrica, no? Anche nel trucco. Invece io nelle serate amo un po' più improvvisare, poi tanti personaggi mi piace accennarli solamente senza entrare così. Questa è proprio nata lì e starà lì Fantastico. Allora, oggi ti utilizziamo come applicazione anche noi. Ah, sì, sì, sì. Ho selezionato un po' di titoli dalla cronaca locale. High Comment, giusto? Esatto, questa applicazione High Comment. Tra l'altro il primo, ma è un caso, non ci crederai, ma è un caso. Stavo ridendo quando mi sono accorto. Il primo è preso dalla provincia, che è il quotidiano di Cremona. Quindi sì, guarda caso. Ed è Cremona, beccato con l'amante, caos in hotel. Il titolo è proprio questo, è Cremona, punto, beccato con l'amante, caos in hotel. Mia moglie che anche io mi molla subito. La moglie pedina al marito, fa una scenata nella hall e arriva la polizia. Non è male. Non è una gran bella figura che fa questo qua. La figura più brutta la faccio io, perché se non tiri via quel Cremona due puntini, sembra quasi che sono io. Va bene, tolto. Il secondo invece, dal giornale di Vimercate, il titolo, sì. Siamo a Caponago, campagna odori, ci sono già 20 annusatori volontari. Fantastico, tra l'altro c'è una canzone vecchissima della tradizione popolare che parla proprio di Vimercate. Sarà la porta, Maria, per carità, se no sente più da quei devi, diceva la canzone, chiudi la porta, Maria, per se no lei è andata a gabinetto, ha fatto la va in del cesso, la slarga i gambi, la si slassa i sultanini e pemidani, cioè va in bagno, si slaccia tutto, poi fa una puzza incredibile, chiudi la porta se no sentono anche quelli di Vimercate. Ma stai scherzando? C'è una canzone proprio popolare milanese che guarda a caso proprio cade a fagiolo su questo. Fantastico. Quindi se, è proprio se tra gli annusatori, se vanno in giro a cercare la Maria, giusto, esatto. Mentre il secolo XIX, una storia eroica raccontano da Genova, il titolo Ho rischiato la vita per salvare un'anatra rara, è successo in spiaggia di un elettricista che si è tuffato in mare e dice pensavo di dover fare anche la respirazione bocca a becco a quest'anatra. Io non ho parole, nel senso che o è pazzo totale o se no è un grande, comunque io un po' per la seconda è un grande, perché rischiare per salvare un'anatra, vabbè, io tante volte mi dico col fiato che ho faccio due bracciate, puff, rimango lì, non so se ce la farei. No, ma infatti, guarda, però devo dire che lui è diventato un eroe in spiaggia, giustamente, giustamente. Grandi invece polemiche perché il bagnino non si è tuffato. Ecco, una cosa triste un po' italiana è che di questi gesti qua, a parte questo un po' così esagerato, ma anche di gente che salva le vite dei bambini, personaggi che diventano, per dire, che sono così importanti vengono dimenticati, mentre invece noi ben sappiamo si spendono pagine sui giornali per gente che non lo sa. Sì, infatti. Io farei proprio una roba del genere, direi per un po' di tempo fare una bella pagina, cioè a tutti i vincitori mettere il salvatore dell'anatra eroe nazionale. E via. Mentre due ladri, storie di furti. Il primo, la provincia, siamo a Vertemate con Minoprio, la località. Apre i barattoli al supermercato preso con le mani nella Nutella. Ma ti devo dire che io sinceramente tante volte faccio queste cose, non è che proprio io prendo i biscotti, poi li apro, poi li porto, chiaramente li batto con la striscia. Okay. Quando arrivano là arrivano già le patatine già consumate a metà, e prima volta mi dicevo questi sono già aperti, gli ho detto li ho aperti io, e quindi questo qua un pochettino lo capisco, nel senso, però insomma, però compratela sta Nutella, no, anche nei danè. Tra l'altro non era la prima volta, l'avevano già preso un'altra volta che col sugo di pomodoro aveva fatto la stessa cosa e si era giustificato dicendo e volevo essere sicuro che il contenuto del vasetto fosse di qualità buono. Lì siamo sulla soglia di una malattia, nel senso che sta sviluppando come quello che ruba il cleptomane, questo qua invece infila il dittino dentro, la seconda volta non lo perdoniamo. Okay. Però finché sono vasetti va bene, lo perdoniamo lo stesso. Mentre l'Alto Adige, Bolzano, ruba il maialino delle mance lasciate sul bancone. Questo qui non è mai cresciuto. Questo qui c'è la mamma che gli ha detto non toccare quei saldi, lasciali lì. No, mamma, prendo 100 lire, prendo 50 lire, è rimasto questo transfer un po' infantile del porcellino. Però ripeto, sia lui e l'altro nel caso di tutti e due questi furti, finché sono questi i furti vanno bene. Infatti. Metto due storie, una molto bella dall'Unione Sarda, siamo a Pabilonis, è il nome della località. Pabilonis. Turista vince un lavoro e lo regala a un sardo. C'era un concorso, si vinceva un contratto a tempo determinato all'interno di un supermercato. Lui ha detto: io sono un napoletano, sono disoccupato, ma è giusto che questo lavoro lo faccia un disoccupato sardo. Questo è un invito, no? Perché poi in Italia, questa è l'ultima domanda, giusto? L'ultima notizia. Sono tornato dal Messico, allora se tu fermi una persona in Messico e gli dici dove è questa via, lui dice alla derecha, poi dritto per qui, è per una grande casa, sembra quasi un dialogo, no? Sì. Quasi è contento che tu gliel'hai chiesto. A New York, perché sono passato a New York, se tu chiedi una via, quello dice, we're going, going, get right. Spende solamente una fiatata, non si capisce nulla e se ne va. Se lui dice, tu chiedi a un romano, scusi, che ne so io? Se lo chiedo a milanese, il milanese ti dice non ho tempo. Se lo chiedo a napoletano, non lo so, napoletano dice, ma ti risponderà dicendo non ho tempo perché diciamo che ho vinto un posto di lavoro, ma lo cedo a un sardo. È una cosa tutta italiana questa, nel senso che manca lavoro, però sembra che anche quando ti arriva gratis è meglio scansarlo. Sono contento per il sardo, perché sicuramente si impegnerà più di quell'altro. Raul, l'ultima notizia invece dal resto del Carlino di Cesena, qua tu sei maghe, quindi forse ce la puoi spiegare. Sì. Parola ad Andrea Montanari, che gestisce un chiosco di piadine e dice, questo è il titolo, la piadina mi parla, è lei che detta le regole. Io che ho girato molto l'Italia devo dire che ci sono dei luoghi di questa Italia misteriosa, uno di questi è Roma, dove per due o tre volte ho assistito ad un tipo che parlava con la pasta asciutta. Ah, ok, quindi cioè, ci sta. Stava da solo sotto al tavolo, il cameriere è arrivato, ha portato la pasta asciutta, lui l'ha guardata da solo, si è imboccato il tovagliolo intorno al collo e ha detto, come sembrava come il film di Alberto Sordi, sì, quando parlava con la pasta asciutta. Cioè lui ci parlava, quindi diciamo che con questo fatto della piadina siamo uno a uno, cioè, sì, ci sta. Nord e sud, pareggia, e quindi ci sta anche una piadina parlante, via dai. Raul, grazie davvero. Grazie per... Daddy, a te, ti ringrazio e ci sentiamo più avanti. Sì, ricordiamo il tuo sito internet che è raulcremona.it, giusto? Che sì, tra... volete visitarlo, è un po' magico, un po' arcano, venite a trovarmi. Molto bello, infatti, molto bello. Vi garantisco che vi risponderò perché sono sempre, diciamo... col jet lag. Quindi, okay. Grazie, buon lavoro, grazie, ciao, buona estate. Salamina a tutti, ciao. Ciao, ciao. Mine vaganti. Mine vaganti e torniamo a parlare di cronaca locale, come sempre andiamo anche ad approfondire alcune delle notizie che più ci hanno colpito durante la settimana. Siamo sull'Eco di Bergamo, la pagina era quella di venerdì 20 agosto, Villa di Serio è la località e questo è il titolo, e il gallo va alla prova del decibel, vive in un condominio, il suo canto sarà misurato. La storia di questo gallo, storia che è stata già raccontata più volte sull'Eco di Bergamo, perché i fatti risalgono già a qualche mese fa, è storia molto divertente che ha seguito la giornalista dell'Eco di Bergamo, Anna Gandolfi, che è qua con noi. Ciao Anna. Ciao, buongiorno, ciao. Buon pomeriggio. Allora, hai intervistato il gallo? Ma no, non parlava neanche tanto quando sono andata a vedere, si vede che si era intimidito. L'hai visto però? Il vicino però non era d'accordo, pare. Allora, una storia che insomma fa anche ridere, giustamente, però ci sono anche litigi in corso. Quali sono i fatti? Ma allora, la faccenda è matura, come hai detto tu, qualche mese fa, diciamo a giugno, quindi in concomitanza con il caldo, si tengono le finestre aperte, eccetera, eccetera, il vicino che vuole dormire, e questo vicino che abita sopra la casa dove insomma ci sta il gallo incriminato, perché la particolarità è appunto che siamo in un condominio, non siamo in una fattoria, non siamo... Cioè il gallo vive in un condominio? Il gallo vive in un condominio, però attenzione, vive al piano terra, sì, di un condominio con il tipico appartamento piano terra con il giardino che sarà di 100 metri quadrati, quindi non è un fazzoletto, e c'è questo gallo. Sì. Il vicino si è lamentato, ha scritto all'associazione AIDA, che è l'associazione che gestisce il tribunale degli animali in condominio ed è l'associazione per la difesa degli animali e l'ambiente, sì, si occupa un po' di queste cose, dicendo che questo gallo insomma disturba e canta da mattina a sera. Allora siamo andati a vedere che cos'è che stava succedendo. Succede che la famiglia, poveretti, loro si sono presi questo gallo pensando che fosse una gallina, infatti il gallo si chiama Pia. Ah, quindi anche poverino, c'è cioè una crisi di identità tra l'altro. Identità, esattamente, perché loro dicono noi l'abbiamo preso così perché così per le uova, abbiamo detto prendiamoci una gallinella, questo è cresciuto, è diventato un gallo, e quindi il gallo cosa fa? Canta. Sì. Canta, loro dicono però l'abbiamo preso 3 anni fa, non ci sono mai state grandissime lamentele, noi vicini, anzi con alcuni ci andiamo pure d'accordo perché d'estate insieme al gatto gli diamo pure il gallo quando noi andiamo via. Poi non abbandonate i galli, infatti. Esattamente, e quindi hanno questo galletto che poi è una cosa piccolina, metti di vedere una palla, non è uno di quei galli giganteschi, anche la sua cuccia. Ok, insomma, quindi abbiamo un gallo, si chiama Pia, canta, esatto. E un vicino ha protestato, ha fatto una sorta di denuncia in questo, esatto, in questo tribunale. Che si occupa di queste cose, l'associazione prima di tutto, poi dopo innanzitutto il comune, il regolamento condominiale non esiste sui galli e non esiste neanche in comune un regolamento che appunto dà delle indicazioni su questa cosa, infatti anche il sindaco aveva detto è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Serve il giudice di pace. Esatto, l'associazione cosa ha fatto? Per cercare di, diciamo, dirimere un attimo questa faccenda, si è messa di mezzo, ha chiamato i proprietari che disponibili hanno detto va bene, venite a misurarcelo, perché 70 decibel è la soglia del dolore uditivo. Quindi cosa hanno detto? Adesso misuriamo il gallo, come i cantanti che fanno le prove. Sì, come gli U2 appunto a Torino devono stare attenti con i decibel, anche questo gallo. Il nostro gallo Pia proprio non lui va tranquillo, insomma. Ma è già stata fatta, questa, no, questa misurazione? No, no, sarà fatta a fine agosto, perché dall'associazione dicono, insomma, questa cosa dei decibel che non riguarda i galli, di solito riguarda più il cane che abbaia, piuttosto che altre cose d'estate piuttosto frequente, le apparecchiature sono quelle che sono, ne abbiamo tot, e quindi arriveranno a fine agosto. Intanto quindi noi aspettiamo. Perché tu ci sarai ovviamente, no? Io ci sarò. E poi c'è una certezza, perché uno dice ma a questo povero gallo cosa gli succede? I proprietari hanno detto assolutamente ci siamo affezionati al nostro Pia, di sicuro non va in padella. Perfetto. E quindi magari qualcuno poi si farà avanti per adottarlo, se non potrà restare lì, anche perché in paese se ne parla parecchio, e già ci sono poesie nate al centro sociale degli anziani, gli hanno dedicato una poesia in rima, insomma poi sono arrivate tutte le televisioni, una celebrità. Una celebrità. Tra l'altro è matematico che mai canterà durante il momento della prova? No, esatto, anche perché non so, magari lo istruiranno. Certo, a tacere. Assolutamente. Sarà il primo caso di omertà tra i galli. Insomma, esatto. E comunque anche questa, vero, nella cronaca locale serve un po' per alleggerire, anche se appunto questo gallo è diventato una celebrità. Il disagio del vicino è un disagio reale e quindi... Esatto, infatti si proverà questa cosa. È chiaro che la cosa è simpatica e fa ridere proprio perché siamo in un condominio. Sì. Quindi è chiaro che c'è chi dice ma insomma, però già... Insomma, e quindi continuerai a seguire questa cosa. Anna, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia. Grazie. Il gallo va alla prova del decibel, chissà, magari ci risentiremo di nuovo per sapere com'è andata questa prova finale, ok? Ti ringrazio, buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao, salutaci Pia, ciao ciao. Arrossisci finché vuoi, corri, fuggi se vuoi. C'era un cane un po' barbone. Una sorta di inedito, un Rino Gaetano e Anna Oxa insieme che cantano questo testo di Battisti e che ci accompagna al prossimo ospite. Siamo ancora nell'ambito della cronaca locale, un altro titolo che ha catturato la nostra attenzione era sul quotidiano Il Centro, il titolo era Soldi a chi battezza il figlio Rocco. L'idea è quella di un consigliere di minoranza presso il comune di Cepagati, siamo in provincia di Pescara, eletto con la lista civica, è molto legato alle sue tradizioni e si è accorto, insomma, lì il patrone San Rocco, che non ci sono più bambini con questo nome, e quindi ha proposto al sindaco di dare una sorta di premio ai genitori che vanno a scegliere proprio il nome Rocco. Ed è qua con noi Camillo Sborgia. Ciao Camillo. Ciao, buonasera, saluto a tutti quanti. Allora la tua idea è piaciuta? Sì, è piaciuta. Il sindaco l'ho incontrato alla processione del santo il 16 agosto, mi ha detto che forse possiamo approvarlo questa delibera, okay. Nel senso che il nome Rocco è unito a quello di Lucia, che sono i due santi patroni del nostro comune, rappresentano una, una tradizione per il nostro paese. Perché è dal 1989 che non viene scelto il nome Rocco. L'ultimo nato ha più di 21 anni, un geometra che porta il nome Rocco. Uh-huh. E come mai secondo te che non è stato più utilizzato, scelto questo nome? Perché penso che sia un nome, diciamo, adesso si mettono i nomi moderni, i nomi che si prendono dalle riviste, dai giornali, dai cantanti, dagli attori, quindi il nome Rocco non è un nome che porta, anche se Madonna ha messo il Rocco al suo figlio, però non è un nome molto comune negli ultimi anni, ecco. No, ho capito. Io sono legato molto alle tradizioni del mio paese. Il 16 agosto si fa la festa del patrone, si fa anche la sfilata dei carri allegorici, tutte le contrade fanno un carro che rievocano le varie tradizioni dei contadini, quindi è una festa molto sentita anche dai paesi vicini, insomma, ecco. Ma secondo te il premio dovrebbe essere di quale entità? Il premio potrebbe stimolare, se non altro si apre un dibattito nel paese, e quindi può darsi che, essendo nelle famiglie, qualche primogenito può darsi che mette il nome Rocco, non tanto legato al discorso del premio, ma perché si riapre questo dibattito all'interno del paese, ecco. Poi il premio potrebbe essere un premio in denaro, potrebbe essere un premio in un weekend per i genitori, insomma, insieme al bambino, potrebbe essere tante iniziative. È importante che si risvegli questo nome e continui questa tradizione che dura dal 1715, mi sembra, o giù di lì. Ecco, ma c'è qualche donna incinta in questo momento nel comune? Sì, c'è, sta, io l'ho proposto a una signora che l'ho vista alla processione, gli ho detto se voleva mettere il nome Rocco, se era maschio il figlio. Sì? Ha detto che ci pensava, adesso vediamo un po'. E quindi è anche il tuo compito, no? Insomma, devi fare di propaganda elettorale, sì, sul nome, sì, Rocco. Poi ho ricevuto un sacco di telefonate anche da un signore dell'Aquila, da un signore di un'altra provincia, che Rocco è un nome che porta fortuna e quindi che è disponibile pure a fare un convegno a Cepagatti per parlare delle origini di questo nome e dei miracoli che ha fatto il San Rocco, che è il santo protettore della peste negli anni 1700, fine 1700. Ho capito. Comunque un 500 euro, possiamo pensare a una cifra del genere? Ma io penso pure 1000 euro. Pure 1000 euro. Ma sì, dai, insomma. Ringrazio molto la vostra radio, che io sento ogni mattina quando vado al lavoro, mi ha fatto molto piacere che mi avete chiamato. Insomma, ci piaceva questa cosa. Un'ultima, una curiosità personale: Cepagatti, visto che tu sei esperto di tradizioni, perché questo nome, da dove deriva? Cepagatti, una porta ghibellina, che le cose sono diverse. C'è una porta ghibellina dove si pagava forse il pedaggio, ci pagate. Ah, oppure potrebbe essere un villaggio preso dai romani, Captus Pagus, un villaggio preso. Sono diverse le origini del nome. Quella più cose che ci pagate attraverso la porta ghibellina. Questo è bello, mi vedo già la coppia che arrivano con il loro neonato all'ufficio anagrafe, danno il nome Rocco e dicono ci pagate, e così tutto io torna. Facciamo così, io ho il vostro numero, nel caso che succeda questa cosa vi faccio un colpo di telefono. E noi siamo qua, grazie vabbè, davvero. Grazie, arrivederci, grazie a voi. Buonasera. Camillo Sborgera, lui consigliere comunale di minoranza presso il comune di Cepagatti in provincia di Pescara, che ha avuto questa idea: soldi a chi battezza il figlio Rocco. Mine vaganti. Mine vaganti @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Vi abbiamo chiesto di segnalarvi, di proporci le vostre storie, se anche voi vi sentite mine vaganti. Sono arrivate tantissime segnalazioni di persone che appunto hanno detto sì, io mi sento una mine vagante. Poi c'è un'altra cosa che è curiosa e bella, perché in tanti dicono: beh, io non mi sento proprio una mina vagante, però un mio amico, il mio vicino di casa, mio cugino, un grande classico. E quindi sono arrivate anche segnalazioni particolari, tutte storie belle, storie di un'Italia viva, di un'Italia che ha mille caratteristiche, è un'Italia propositiva, è un'Italia allegra, è un'Italia creativa. Non siamo noi a scoprirlo, però ci è piaciuto avere questa testimonianza quotidiana. La mina vagante ospite oggi in questo spazio si chiama Isabella Fonsati, è ricercatrice volontaria presso il Dipartimento di Anatomia Patologica dell'Università di Trieste, vive vicino a Bologna e ha una sua missione che porta avanti già da qualche anno, che è quello di portare in Italia per la prima volta, perché non è mai successo, una delle mostre di Body Worlds, che sono queste esposizioni di creature, di corpi sottoposti a un processo particolare di conservazione che è la plastinazione. Do il benvenuto a Isabella Fonsati. Ciao Isabella. Ciao Federico. Ciao, buona domenica, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Isabella, ti ho conosciuto in quanto Mina Vagante, perché tu hai detto: io ho donato il mio corpo per la plastinazione. Quindi da lì mi sono incuriosito per capire cos'era la plastinazione, che di fatto avevo già letto qualcosa ma non l'avevo associata a questo nome, e poi per scoprire tutto il mondo che c'è attorno. E ci puoi raccontare appunto cosa vuol dire donare il proprio corpo, che cos'è la plastinazione e che cos'è questa mostra che tu sogni un giorno di vedere in Italia? Allora, la plastinazione è un procedimento per conservare il corpo umano dopo la morte, che è ben diverso dalla mummificazione, nel senso che si avvale di un procedimento molto molto complesso e molto lungo. Ci vogliono 1500 ore di lavoro ininterrotto, almeno per un corpo intero. Si tratta di sostituire liquidi corporei dopo la morte con una sostanza di polimeri plastici, e tale per cui il corpo rimane praticamente integro, come se fosse ancora in vita. Quindi è possibile vedere la struttura anatomica nella sua interezza, nella sua perfezione. Io, quando ho scoperto questo sistema di conservazione dei corpi, essendo io stessa una appassionata ricercatrice di anatomia, ho sentito che comunque potesse essere una buona opportunità, una strada assolutamente mia, perché un corpo dopo la morte può ancora dare molto, può insegnare e risvegliare le coscienze. Ecco, credo che questo sia poi la vera missione della mostra, perché l'anatomia che si propone di insegnare non è a scopo accademico ovviamente, ma è su larga scala, quindi per coprire un po' la grande massa di popolazione, in modo che si prenda coscienza della bellezza e della perfezione del proprio corpo, cosa che altrimenti ovviamente tranne gli addetti ai lavori non è possibile vedere. Certo, allora diciamo subito che intanto non è una ricerca dell'immortalità, e soprattutto si perde la propria identità, perché questi corpi che subiscono il processo, il volto non rimane riconoscibile. Questo infatti è uno dei diktat, diciamo, principali del sistema, diciamo, chiamiamolo una banca dati dei donatori del corpo, che siamo praticamente quasi 10.000 nel mondo ormai. Siete 10.000 persone che avete deciso di donare dopo la morte il corpo a questo istituto per la plastinazione, che esatto, è in Germania, che è stato inventato, perché questo processo è stato scoperto da un anatomopatologo, che insomma mi si è cartocciata la lingua, che si chiama Gunther von Hagen. Persona molto discussa, perché sembra anche fosse insomma un po' al centro, all'inizio almeno del suo lavoro, questi corpi, non era ben chiara la provenienza, vero? Sì, queste sono delle polemiche più accreditate su internet, polemica alla quale ovviamente potrebbe rispondere in prima persona soltanto il dottor von Hagen, che peraltro ha fatto nel suo sito web. E mi prendo la libertà di dire che probabilmente ogni volta che esiste l'idea o si manifesta un progetto di così grande impatto, perché comunque va a sforare due tabù importanti, il corpo e la morte, e forse sono inevitabili voci che cerchino di screditare un po' la validità del progetto in sé. Io suggerisco di guardare l'importanza che porta questo progetto, tant'è che appunto 10.000 persone hanno una certa rilevanza e parlano da sole, insomma. Perché appunto l'accusa è anche quella un po' di spettacolarizzare la morte, perché questi corpi che diventano corpi plastici vengono poi esposti in posizioni spettacolari, molto belle, però è anche un modo per imparare a conoscere il proprio corpo. Assolutamente sì, anche perché esistono anche pose assolutamente, diciamo, accademiche, abbastanza classiche, e l'aspetto spettacolarizzazione di alcune pose che sono state poi anche criticate perché sono state collegate a un discorso artistico, peraltro non escluso in questa forma di particolare scienza. La spettacolarizzazione permette anche la visualizzazione di sezioni anatomiche che altrimenti sarebbero molto nascoste all'interno del sistema organico, e con questa, diciamo, esplosione, con questa apertura un po' forzata, si può veramente entrare con un piccolo folletto all'interno del corpo ed esplorare le più piccole cavità. Mm-hmm. Tu dirai che senso ha? Il corpo nostro, quindi la plastinazione è sicuramente un grande mezzo per poter venire a conoscenza davvero della nostra casa, nella casa nella quale comunque noi abitiamo quotidianamente, e quindi oltre a conoscerlo sicuramente c'è la possibilità di cominciare ad amarlo per quello che è. Allora, la prima esposizione, la prima mostra è stata fatta nel 1995 in Giappone. 93, scusa. Attualmente ci sono 3 o 4 mostre aperte in contemporanea in giro per il mondo, oltre 30 milioni di visitatori in tutti questi anni. Questa mostra però non è mai stata portata in Italia. Esatto, fino adesso. E fino adesso, e tu insomma stai cercando sotto sotto di aprire un po' appunto un habitat ideale perché si possa portare anche qua questa esposizione che tu hai visto più volte. È d'impatto, perché insomma le fotografie che ci sono in rete o anche sul tuo sito isabellafonsati.it si lasciano un po', cioè, sorprendono sicuramente, però com'è? Tu hai visto le reazioni dei visitatori all'entrata e all'uscita? Le reazioni dei visitatori erano, dunque, all'entrata le più eterogenee, quindi c'era la grande curiosità, c'era la persona magari che era stata, fra virgolette, trascinata, che aveva un po' di ritrosia. Le reazioni all'uscita sono state quasi all'unanimità di enorme sorpresa, ma non ho assolutamente mai visto espressione di disgusto. Questo è molto importante, perché in effetti ho visto entrare anche bambini, scolaresche, quindi persone di varie età, varia estrazione sociale, varia cultura, però tutti sono usciti davvero molto, molto ammirati e sorpresi. Tu hai frequentato anche dei corsi, insomma stai seguendo questa attività, attività che è diventata anche un po' l'ispirazione per un libro che hai scritto da pochi mesi, che si intitola Diario d'amore e di morte, edizione Italo Svevo. Cos'era un po' il desiderio di raccontare questa passione, questa emozione, questa tua sensibilità anche con le parole? Sì, diciamo che questo romanzo è un collage un po' delle mie esperienze vissute e anche di quello che ha suscitato in me appunto la plastinazione, come dicevo prima, davvero il mezzo attraverso il quale poter fare un viaggio esplorativo all'interno di se stessi, quindi un po' questo romanzo è diventato, come hanno detto più volte i miei lettori, un bello importante viaggio, ecco, questo credo che sia quello che ha suscitato in me questa tecnica e quello che spero di suscitare nei miei lettori con questo romanzo, e spero molto presto, visto che ci sono importanti lavori in corso attualmente, di poter trasmettere a tutti quanti con l'arrivo di questa mostra in Italia. www.isabellafonsati.it. Grazie davvero Isabella per averci portato la tua testimonianza. Grazie a te Federico, un saluto a tutti. Ciao, buona domenica. Ciao. Ciao. Vorrei avere i sensi per sentire il pericolo, se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna, più o meno come fa un piccione. Lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Voi dovreste vedere la faccia che ha Pietro dall'altra parte del vetro su questo pezzo musicale, che però ci serviva per portarci a questa domanda. Loris, vorresti avere il becco? Magari. Come magari? Allora, presentiamo la prossima mina vagante. Si chiama Loris del Maestro. Dal Maestro, avevo scritto male io. E tu sei campione europeo di chioccolo, che insomma andremo a scoprire che cos'è. Ti abbiamo convocato oggi perché si è appena conclusa a Sacile questa Sagra degli Osei, che è un appuntamento fondamentale. Era la 737esima edizione di questa sagra, che risulta essere una delle più antiche e più frequentate d'Europa. E uno dei momenti più importanti della sagra è il concorso tra i chioccolatori. E tu hai vinto tu anche? Ho fatto il primo sul Merlo, il primo sul Sassello e poi ho fatto un terzo sui diversi. Oh, ok. E poi mi sono portato a casa l'assoluto, ecco, visto che ho vinto le due categorie. Sì, insomma, non c'è stata gara. Spiegaci intanto che cos'è il chioccolo. Beh, il chioccolo usano uno strumento per imitare il canto degli uccelli. Sono diversi tipi, c'è quello per i tubi, per il tordo, per il sassello, per il merlo, ce ne sono diversi, hai capito? Mm-hmm. Poi c'è anche la lamella, che la lamella l'hanno inventata i tedeschi per fare un po' di baccano fra le sagre, invece noi l'abbiamo tramutata e otteniamo questi canti, e con quella si può ottenere quasi tutti i canti possibili. Quindi imitate il canto dei volatili, ed è proprio un concorso canoro, sì, a chi assomiglia di più ad un verso. E qual è la tua specialità? Beh, io ho vinto, sono campione europeo sul merlo, okay. Scusa Loris, fa un po' ridere per noi non addetti ai lavori, ma quanti eravate al campionato europeo nella categoria merlo? Eravamo tre dell'Italia, tre spagnoli e tre francesi. Ma proprio a squadre si fa? Selezionati, sì. Mm-hmm. E ma puoi farci sentire qualcosa anche adesso in diretta? Se vuoi. Ma certo, però introducici prima cosa fai, proprio il DJ, cosa è il merlo e basta, o è un merlo specifico? Ti faccio il merlo, che lo conosce quasi tutti il merlo, cosa vuoi, ormai sono nei nostri giardini. Ok, quindi un merlo. Ti faccio il merlo e poi ti faccio un 2-3 note del tordo bottaccio. Benissimo, vai col, okay, merlo, grazie, sì. Ok. Standing ovation. Ma Loris riesce a fare versi anche senza chioccolo, cioè senza strumento? Anche sì, qualcosina sì. Che cosa? Ma faccio il merlo, faccio la lodola, faccio un po' di tutto, però il volume è molto molto meno, hai capito? Ho capito, quindi non riesci ad andare su, ad equalizzare la voce. Uh-huh. Ma ci si allena a casa? Tu hai proprio sedute di allenamento dove... Sì, dove io ho anche la scuola di chioccolo dove insegno ai bambini. Ah. E poi faccio dei corsi dove insegno a chioccolare, mi piace da morire insegnare ai bambini e a portare a questa tradizione che vada avanti, capito? Perché non ce ne sono più. Mm-hmm. Ce ne sono più che vogliono andare avanti con questa tradizione. Perché adesso io per esempio, ma insomma una posizione assolutamente personale, no? Sono assolutamente contro la caccia, quindi qui adesso scatenerò la tua rabbia. Cioè è un'arte che va anche al di là dei cacciatori, quella del chioccolo? Ma no. È stato inventato dai nostri nonni il chioccolo una volta per andare a caccia, per tirare questi uccelli. Ma io ho tanti allievi e tante persone che proprio non vanno a caccia, lo fanno proprio per passione, per imitare questi canti, che è uno più bello dell'altro, insomma. Mm-hmm. Dai, ci saluti con un altro canto o a bocca libera o col chioccolo, come preferisci tu? No, ti saluto con un canto di un usignolo di notte. Vai. Ok. Grazie. Ci faccio la suoneria per il cellulare, Loris, è fantastico. Com'era? Era, complimenti davvero, Loris. Okay. Le vecchie arti che ritornano, Loris, dal maestro campione europeo di chioccole, oggi ci ha dimostrato live quello che sa fare. Grazie davvero, ciao e buona domenica. Grazie, Loris. A voi, grazie a voi, arrivederci. Se non è una mina vagante lui, Mino e Vaganti, @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Mine vaganti. Ultima parte di Mine Vaganti e come sempre vi raccontiamo una mina vagante artistica. Andiamo alla ricerca di artisti, musicisti soprattutto, persone che amano fare musica in maniera alternativa, utilizzando strumenti poco conosciuti o cercando insomma nuove vie musicali. Beh, sentite un po' questa musica e vediamo se indovinate qual è lo strumento. Thank you. Lo strumento si chiama Ong, è una sorta di doppia insalatiera, ma vi verrà spiegato, tenteremo di farvelo vedere anche via radio, uno strumento creato, inventato da pochissimo, ma di questo strumento ci ha fatto una professione Davide Bianchi, comasco, nato nel 1974, cresciuto vicino a Roma, oggi si definisce cittadino del mondo, vive ad Amsterdam, fa il basket, fa il musicista e ha scelto proprio l'ong come strumento da portare nelle strade e di tutta Europa. E Davide Bianchi, in arte Svarup, è qua con noi. Ciao Davide. Ciao, ciao. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Tanto questo nome d'arte, Svarup, ho detto bene? Sì, il nome d'arte è Davide Svarup, è il mio nome di battesimo, Davide, sì? E Svarup è un nuovo nome che ho preso in India. Oh, ho capito. Tu fai il basker di professione, il musicista di strada? Sì, da 3 anni. E ci si vive? Sì, e ci si vive perché anche ho prodotto un CD e vendo il CD via internet, ai concerti e ci si vive bene, specialmente, sì. E senza il CD non sarebbe così, però con la musica che vendo sì. Ok, e Davide, insomma, hai scelto questo strumento particolare, a te il compito di fotografarlo, a te il compito di farcelo vedere via radio. Ok, lo strumento è... E il commento comune che tutti quanti danno è che sembra un barbecue. È vero, col coperchio, un barbecue col coperchio, sì, bravo, esatto. O una navicella spaziale anche, o un UFO, è fatto di metallo, è acciaio ottonato e può sembrare anche uno scudo, diciamo, sì. Uno scudo per proteggersi da... battaglia. Certo, no, è vero, insomma, un doppio scudo. E in verità è tutto questo per darvi l'idea, è uno strumento che viene suonato come? È una percussione, e ovviamente di metallo, e la cosa che colpisce più di tutti è che chi ti guarda mentre suoni e vede che stai, come dice, è percuotendo uno strumento, ma esce fuori melodia, no? È una percussione, diciamo come un tamburo, senza pelle, ma esce melodia, puoi creare musica, quindi è abbastanza scioccante. Perché la musica che stiamo ascoltando in questo momento l'hai fatta tu da solo, con quello strumento lì e basta? Sì, è tutto registrato dal vivo, è tutto... sembra come se fosse più di uno strumento, ma è solo uno strumento che suona, che crea tutto quanto, perché hai... Puoi fare il ritmo, il basso e la melodia allo stesso tempo. Uno strumento che insomma ha anche così delle musicalità new age. Tu prima ci parlavi di India, ma in verità nasce in Svizzera. Sì, è nato in Svizzera nel 2000. È uno strumento creato a mano da una compagnia che si chiama Panhard, che prima costruivano steel drums, questi che venivano fatti con i bidoni e... ma suonano con le bacchette, diciamo che il concetto di come crea la nota è lo stesso, ma è totalmente differente, perché tu suona e con le mani e il suono è molto più delicato. Ma strumento che è facile da recuperare, da acquistare? No, è molto difficile perché appunto è creato a mano e c'è più richiesta della produzione, quindi sì. Bisogna aspettare 2-3 anni, bisogna spedire una lettera scritta a mano agli inventori e non tutti possono averlo, solo alcuni fortunati potranno. E perché lo fanno a mano e non possono farlo per tutti quanti che lo vorrebbero. Ho capito. Davide, abbiamo scaricato dal tuo sito, anzi no, ce li hai spediti tu, non so se dal tuo sito si possono scaricare o si può forse acquistare il CD. C'è un file che si intitola Effetto Zappa. Che cos'è? E Zappa è dedicato al musicista Frank Zappa. È proprio lui, ok? Sì, perché quando ho registrato il disco l'ho fatto tutto quanto in un pomeriggio, è quasi tutto improvvisato. E avevo delle melodie in testa, però è tutto improvvisato, è tutto dal vivo. E quando stavo suonando quel pezzo lì pensavo a Frank Zappa. Mm-hmm. E allora ero ispirato dalla tua musica e allora l'ho chiamato così. Ok, allora ascoltiamoci questo Effetto Zappa. Thank you. Effetto Zappa, estrapolato dal CD Music for Hong. Lui è Davide Svarup, Davide Bianchi, un comasco che ha scelto questo strumento per appunto portarlo nelle strade di tutta Europa. Pesa molto, Davide? So che la domanda è banale, però la prima cosa che uno pensa è un basker con appunto il barbecue. No, cioè si trasporta facilmente. No, lo strumento pesa 3,4 kg. E con la borsa e la borsa di protezione sui 7 kg tutto quanto quando ce l'ho sulle spalle. Okay. Ma sono abituato perché sono 5 anni che ce l'ho sulle spalle, quindi per me va benissimo. Lo suoni sempre da solo o è uno strumento che può essere portato anche all'interno di una formazione, di una band? E molti lo fanno e per mia esperienza io preferisco suonare da solo perché... E preferisco lo strumento da solo perché la bellezza dello strumento è il suono più che la composizione che uno fa, quindi e con altri strumenti c'è il rischio che perde il suono perché è molto delicato il suono e credo, cioè, e la mia opinione è che anche se suoni con altri musicisti deve rimanere lo strumento principale e gli altri mettono delle cose in più per fare ancora più bella la musica. E perché hai scelto Amsterdam come tu, cittadino del mondo, come casa? Guarda, proprio non l'ho scelta, ma è capitato per un po' di cose. Ho incontrato una ragazza in India, però sono andato a trovare, volevo andare via dall'Italia. Insomma, il motivo proprio non lo so perché sono andato a Amsterdam, ma in un certo senso è stata l'esistenza, perché volevo diventare musicista di strada e ancora non conoscevo Lang e dopo 4 mesi che sono arrivato a Amsterdam Lang è arrivato da me, quindi penso che sia stato quello il motivo principale per andare a incontrare Lang. Davide, è stata una cosa magica, diciamo, tutto quanto. In rete insomma vieni presentato come probabilmente il migliore interprete italiano di questo strumento giovane, perché è uno strumento appunto nato nel 2000. Quali sono i tuoi progetti futuri ora? I miei progetti futuri sono riguardo CD, ovviamente adesso ho fatto un disco solista solo di Hang e vorrei farlo con altri musicisti e sto sperimentando con differenti musicisti e progetti e anche un DVD perché ho molti amici artisti che fa juggler e altre cose, quindi fare un DVD che mette un po' tutti quanti insieme musica e altre arti come possono essere l'Aerial Silk, queste ragazze che ballano dalla seta in aria o che fanno i giocolieri. Insomma, quindi c'ho tanti amici in vari campi e vorrei mettere tutti insieme e creare un DVD che presenta un po' tutti quanti. Insomma. Siamo curiosi, ci stavamo guardando in faccia tra di noi e pensare al barbecue sotto, alle ballerine sopra, sulle sedie, l'immagine l'abbiamo un po' banalizzata, però può rendere l'idea. Davide, vuoi darci il sito internet dal quale credo si possano trovare anche le indicazioni per acquistare il CD? Sì, Davide Svarup, Svarup si scrive SWARUP.com, davidesvarup.com, e ci sono i link anche per le informazioni per lo strumento, come prenderlo e anche per il CD ovviamente. Perfetto, grazie davvero Davide, in bocca al lupo a te. Grazie mille. Hang. Ciao. Ciao, buona giornata a tutti. E finisce qua Mine Vaganti, sì, perché oggi è anche l'ultima puntata di questo ciclo estivo, ci siamo conosciuti appunto in queste 6 domeniche, insomma vi abbiamo dato un assaggio di quella che è un'altra Italia, ci siamo divertiti molto e chissà, speriamo comunque di tornare perché le Mine Vaganti in giro sono davvero tante. Ringrazio chi ha lavorato con me al programma, Luca Rinaldi e Luca Cremonesi, in particolare in questa puntata, Margherita Ina in passato, a tutti i tecnici, oggi c'era Pietro. dietro la corte, che si è divertito soprattutto con i piccioni. E vi ricordo che potete riascoltarci comunque nel podcast dal sito radio24.it. rimane attiva la mail, che è minevaganti@radio24.it. grazie, noi ci siamo divertiti, spero molto anche voi. Ciao.